Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ho solo un reddito e da lavoratore dipendente. Questo per non sembrare in conflitto di interessi. Vorrei quindi un sistema fiscale semplice, dove non fosse possibile cavillare per evadere grazie a una legislazione bizantina e farraginosa. Questo per avere l'evasione fiscale al minimo fisiologico, non fosse altro per pagare meno. Mi trattengono quasi il 50%. Kakà nel Real Madrid in percentuale paga molto meno di me. Sono d'accordo comunque con Piero Ostellino. In certi casi l'evasione è la difesa di un organismo sano, lo Stato liberale e di mercato, ad un attacco virale. Personalmente sarei per una flat tax, senza possibilità di deduzioni. Magari ci si potrebbe arrivare a tappe, partendo da un sistema a due, massimo tre scaglioni. I paesi che l'hanno applicata pare abbiano un'evasione fiscale molto minore di quelli a tassazione progressiva. Sono pure concorde con le tesi di Oscar Giannino. Di sicuro oggi in Italia ci offrono un pranzo in un fast food facendocelo pagare come se fossimo seduti al tavolo di un ristorante di lusso. Roberto. Alla base della domanda se sia lecito o no evadere il fisco si pone la parola fiducia. Non bisogna evadere le tasse, perché la comunità ha bisogno del nostro sostegno. Essendo danese, ho una visione forse particolare, perché da noi il governo è riuscito a fare sentire ad ogni singolo cittadino che loro sono lo Stato. Abbiamo un alto ritorno in termini di sanità, educazione, infrastrutture, burocrazia, giustizia veloce, poca corruzione, eccetera. In Italia mancano le fondamenta per avere un rapporto di fiducia. Ci sono troppi furbi e troppa corruzione. I controlli che si fanno sono troppo pochi. L'unico ritorno rispetto ai versamenti fiscali sono la sanità e la scuola elementare, che direi funzionano abbastanza bene. La domanda che viene naturale: perché devo pagare allo Stato quando nello Stato non ho alcuna fiducia? Siamo al 67° posto nella lista dell'OCSE. L'evasione è inevitabile perché il furbo del quartiere evade, e va bene così, visto che i politici non danno un esempio morale, eccetera. Olav. Non sta scritto da nessuna parte che i soldi delle tasse debbano servire, così come effettivamente succede, per finanziare i privilegi dei politici. Così come non è vero che con quegli stessi soldi si debbano tenere in piedi i vari carrozzoni dei quali l'Italia è strapiena, indispensabili per accrescere il consenso. Non è vero, sempre a mio modesto parere, che le tasse vadano pagate a prescindere, poiché se non si è soddisfatti dello status quo, questo si può sempre cambiare con il voto, dato che in Italia con il voto non si cambia niente. Ezio. Sono sempre stato un ascoltatore silente, ma oggi ho pensato di scrivervi dopo aver sentito lo psicodramma di Michele Placido a Venezia. Qualcuno lo rassicuri, può continuare a fare film con i soldi di Medusa, ovvero Fininvest, e firmare gli appelli di Repubblica contro Berlusconi, che, a dir loro, metterebbe a rischio la libertà di stampa nel nostro paese. Ho trovato comico come Placido si sia destabilizzato per la domanda del tutto pertinente di una giornalista, spagnola scambiata per inglese. Fortuna che si chiama Placido. Rodolfo, Torino. Gentile signor direttore, a Venezia abbiamo potuto assistere al sanguigno carattere di Michele Placido, il quale si è rivolto con maniere brutali e maleducatissime ad una giornalista straniera che gli aveva posto una domanda scomoda e imbarazzante. Il suo ultimo film sul 68, infatti, è stato prodotto dalla Medusa, società di proprietà di Berlusconi. Placido è noto per le sue posizioni politiche anti-berlusconiane ed è firmatario di protocolli a favore della libertà di stampa o iniziative simili finalizzate a giudicare quella del nostro premier una pseudo-dittatura. La giornalista, assalita verbalmente dall'ira dell'attore, si era stupita del fatto che egli avesse fatto produrre il film dal suo nemico politico numero uno. La verità fa male e la reazione furibonda di Michele Placido ne è una conferma. La sua volgarità, misera e arrogante, è rimbalzata su molte stazioni radiofoniche ed il suo opportunismo è emerso immediatamente. Altri personaggi, tra coloro che attaccano la politica del governo, hanno collaborato a scopo di lucro con il Presidente del Consiglio. Ricordiamo Massimo D'Alema, che pubblica libri per la Mondadori. Che coerenza! Michele Santoro lavorò per Italia 1. Claudio Bisio non mi pare di destra, ma lavora liberamente ed è pagato profumatamente da Mediaset. Chissà quanti altri artisti di sinistra hanno incassato ingenti somme dal padre padrone di tutte le reti. È questa la coerenza del compagno Michele Placido e dei suoi colleghi? Marco. Vorrei riassumere alcuni punti che mi fanno considerare equo il sistema sanitario statunitense. Innanzitutto, il bisogno non è un diritto. Il fatto che una persona accanto a me stia morendo di fame o di malattia non deve mai essere un mio obbligo a curarla. Altrimenti si trasforma un piccolo torto, ovvero una persona sta morendo, in un grande torto. 59 milioni di italiani devono curarla. La solidarietà, insomma, o è libera o si chiama rapina, furto. Insomma, non è solidarietà. A parità di reddito, due cittadini italiani pagano le stesse tasse per il Servizio Sanitario Nazionale. Se è vero che un servizio sanitario garantisce al più sfortunato dei due di curarsi anche con i soldi del contribuente sano, il caso del servizio sanitario presenta numerose storture. Un individuo che si espone a rischi per la salute, corre in auto, fa l'alpinista, il paracadutista, il motociclista, fuma, mangia numerosi cibi grassi, ha gli stessi diritti e doveri di un salutista che non esce mai. Un sistema di tipo assicurativo compenserebbe queste storture attraverso un aumento del premio per l'assicurato a rischio. Ad esempio, oggi il costo assicurativo degli operai edili è nella media nazionale, ma poiché fanno un lavoro più rischioso di quello di un impiegato, l'imprenditore edile dovrebbe pagare molto di più. Le case costerebbero molto di più e forse ci sarebbe meno cementificazione selvaggia in Italia. E così via. Il sistema pubblico è un alibi per scaricare sulla collettività quelli che dovrebbero essere costi insiti al processo di produzione o in generale alla vita e alle scelte di ciascuno di noi. La concorrenza tra ospedali da una parte e servizi assicurativi dall'altra non può che migliorare l'efficienza del servizio. Ricordo che il servizio sanitario non è gratuito in Italia, è semplicemente prepagato con l'imposizione fiscale. Lo Stato sostiene questo costo esattamente come farebbe il mercato, insomma. Non c'è alcun motivo per credere che i costi aumenterebbero in caso di libero mercato, per due ragioni. Da una parte, vediamo che già oggi tutto ciò che ci serve per sopravvivere ci viene dal mercato e che lo Stato fornisce solo servizi accessori. Dall'altra, non avrebbe gli enormi costi che oggi ha lo Stato, derivanti dal costo di esazione e dal costo di intermediazione. Costi che non esistono per una normale azienda. La salute pubblica è solo un alibi. Se alla politica stesse a cuore la salute dei cittadini, potrebbe semplicemente dare al cittadino malato un assegno per andarsi a curare dove vuole. Infatti, l'unico motivo per cui le cliniche private sono più costose degli ospedali pubblici è che, essendoci già un concorrente monopolista, per quella che sarebbe in effetti la fascia più interessante del mercato, i poveri e i medi, gli operatori privati sono stati costretti a puntare non su servizi di massa, ma sulla nicchia di mercato dei ricchi. Offrono quindi servizi accessori per attirare la fascia alta del mercato e spesso si scopre che per quanto riguarda la parte principale, ovvero il servizio sanitario, la qualità è inferiore al pubblico. Insomma, un sistema sanitario privato che mettesse in concorrenza le assicurazioni e gli ospedali, da una parte incentiverebbe il comportamento salutista del cliente e dall'altra stimolerebbe la concorrenza tra ospedali e sulla ricerca. Marcello. Vorrei ricordare che quanto avvenuto in Italia con Boffo, moralista poi scopertosi poco morale, è successo anche negli Stati Uniti, paese dove vivo, in occasione del caso Spitzer. Elliot Spitzer, ex governatore dello stato di New York, è stato famoso per aver combattuto la famiglia mafiosa dei Gambino e azzerato la corruzione nell'industria e nel commercio, ma soprattutto ha fatto passare provvedimenti molto severi sullo sfruttamento della prostituzione. Il 10 marzo 2008, però, il New York Times rivelò che nonostante la sua fama di duro e irreprensibile difensore dei costumi, Spitzer era cliente abituale o utilizzatore finale di un ampio giro di prostitute. Due giorni dopo, Spitzer annunciò le sue dimissioni. Al contrario di quanto è avvenuto in Italia con Boffo, negli Stati Uniti in quell'occasione il pollice verso nei confronti di Spitzer non è mancato ed è stato assolutamente bipartisan. Gli stessi democratici per i quali Spitzer era un campione di cui essere fieri e su cui puntare, non ci hanno pensato un istante a infilarlo in un sacco e a scaricarlo. Non voglio porre alcuna domanda, ma l'interrogativo rimane. Perché in Italia si prendono a modello i paesi stranieri e soprattutto gli USA solo quando fa più comodo? Luca. Il 1 aprile del 1981 il Parlamento approvò la riforma della pubblica sicurezza che, da militare, diventò civile. Nacquero i sindacati e ci fu tutta una serie di cambiamenti all'interno del corpo. Uno degli articoli di legge, il 36, prevede che allo svolgimento delle attività amministrative sia adibito personale civile e che i poliziotti altro non debbano fare che i compiti di istituto. Dopo 28 anni, ci sono ancora circa 25.000 agenti di ogni qualifica che svolgono attività puramente burocratica, non legata a indagini di polizia, come qualche sindacalista si ostina a far credere al giornalista di turno, ma mansioni puramente amministrative, gestione dei magazzini, contabilità interna, segreteria, posta cartacea, altro che militari. Ci sarebbe un esercito di agenti da mettere in strada, e non solo per logica e buonsenso, ma per legge. Sandro. Tra pochi giorni sarà passato un anno dal fallimento di Lehman Brothers, un fallimento che ha segnato l'inizio della grande crisi finanziaria. Ma ne abbiamo ricavato qualche insegnamento? Giuliano. Caro Giuliano, la crisi finanziaria è stata uno scossone sull'economia mondiale di tale portata che prima di fare dei bilanci bisognerà attendere forse qualche anno. Anche perché c'è ancora un dibattito tra gli economisti sulle reali cause di un dissesto finanziario che si è trasformato in recessione economica. La crisi ha insegnato comunque che è un'illusione pensare di creare il denaro con il denaro e quindi ha fatto vedere come ci siano grandi rischi quando la finanza, le banche e il sistema del credito non mantengono uno stretto legame con la realtà dell'economia della produzione e dei consumi. Ma il vero problema non è quello che la crisi ha insegnato, ma quello che i politici e le autorità monetarie hanno imparato. E allora si può dire che per molti aspetti il rischio è che gli strumenti che sono stati adottati per affrontare questa crisi possono essere tra i fattori che potranno determinare nuove difficoltà in futuro. E bisogna purtroppo ammettere che il sistema economico è ben lontano dall'equilibrio e da una solida dinamica di crescita. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.